GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La proprietà finlandese della Wärtsilä conferma i licenziamenti anche al tavolo del Mise a Roma e propone un piano di reindustrializzazione con cui prevedere una mitigazione degli effetti occupazionali definito inaccettabile dai rappresentanti sindacali dei lavoratori, che proclamano un ulteriore sciopero e non hanno intenzione di lasciar partire i motori destinati in Sud Corea. Attacco mortale a una missione della diocesi di Pordenone in Mozambico, uccisa una suora originaria del Veneto, salvi due sacerdoti della regione. Inflazione che ha raggiunto livelli record ha portato a un sensibile aumento soprattutto nel carrello della spesa, cittadini ed esercenti fanno i conti con i rincari. Gli ITS, istituti specializzati in alta formazione post diploma, esistono da 12 anni ma sono ancora poco conosciuti e confusi con quelli tecnici. Dalle imprese la forte richiesta di specialisti nella cybersicurezza. Al via oggi la 28esima edizione di Friuli Doc, 4 giorni di appuntamenti calibrati sulla celebrazione della cultura, delle tradizioni, dello spirito e delle eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio. Con un incontro a Praga si apre la 23esima edizione di Pordenone Legge, presentata a Monfalcone la stagione di musica e prosa del teatro comunale. Calcio, e i ganesi del Mazembe si aggiudicano la finale del trofeo Nereo Rocco disputata a Cividale battendo per 2-1 il Pordenone, aggiudicandosi con pieno merito alla coppa riservata ai calciatori under 18. Le 7:20 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Beaz e Maria Spezia, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 8 settembre. Prima di cominciare, uno sguardo alla situazione del meteo, che vede un allerta giallo emesso dalla Protezione Civile per tutta la giornata per rischio idrogeologico e temporali forti nelle zone corrispondenti al bacino dell'Isonzo e alla pianura di Udine e Gorizia, oltre che sul Carso e sulla costa da Monfalcone a Trieste. Questi dati registrati poco fa, il cielo è da nuvolosa variabile sulla regione, a Trieste ci sono 20 gradi e 5 decimi, il mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi, a Pordenone 20 gradi, a Udine 19 gradi e 5 decimi, a Gorizia 18, a Foni di Sopra 15 gradi, a Tarvisio 14, a Sappada 13 gradi e mezzo, a Tolmezzo e Piancavallo 13 gradi, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 11 gradi, sulla costa a Lignano e Grado 22 gradi, con temperatura del mare che è di 25 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in prevalenza nuvoloso già dal primo mattino e poi in giornata probabili temporali sparsi con piogge abbondanti. Saranno possibili anche locali temporali forti, specie su pianure costa, e piogge intense, in particolare sulla fascia orientale. Vento moderato da sud-ovest in quota, scirocco moderato sulla costa, forse a tratti sostenuto. In apertura dunque la crisi della Wärtsilä, l'azienda non intende sospendere la procedura di licenziamento dei 451 lavoratori, ma sarebbe disponibile a inviare ai sindacati un piano di mitigazione degli effetti occupazionali. Una proposta che è emersa nel corso dell'incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma e che è stata subito definita irricevibile dai rappresentanti dei lavoratori, dello stesso governo, che anticipa misure anti-delocalizzazione nell'imminente decreto energia. Wärtsilä non fa passi indietro e non ritira la procedura di licenziamento per 451 lavoratori. Per governo e sindacati non c'è spazio per la discussione su una nuova proposta che ha poco di concreto, peraltro, quella che l'azienda finlandese fa all'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Un piano di reindustrializzazione con cui prevedere una mitigazione degli effetti occupazionali. Piano che potrebbe già essere inviato ai sindacati il 12 settembre, dice Andrea Bocchicchio, presidente di Wärtsilä Italia. Crediamo in Trieste e vogliamo portare avanti attività di ricerca, sviluppo e servizi che occupano oggi oltre 500 lavoratori, le sue parole. Ma la realtà è che fra poco più di un mese 451 persone saranno senza lavoro. Il ministro dell'economia Giorgetti e quello del lavoro Orlando d'accordo con i sindacati che per discutere l'azienda prima deve ritirare la procedura di licenziamento. Presente in collegamento il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che in apertura si è detto pronto a percorrere tutte le strade per evitare la chiusura del sito. Intanto Fincantieri avrebbe escluso la Wärtsilä dalla prossima gara. Al tavolo anche Akan Agneval, presidente presidente di Valsila Corporation e le parlamentari regionali Deborah Serracchiani e Sabrina De Carlo. In collegamento invece l'assessore regionale Alessia Rosolen. Tutto questo a una settimana dal 14 settembre, quando saranno passati 2 mesi dall'annuncio della procedura. Sarà anche il giorno in cui il Tribunale si pronuncerà sulla correttezza della procedura nei confronti dei sindacati. E dal 14 settembre l'azienda avrà un solo obbligo: discutere di incentivi e cassa integrazione. La soluzione sembra una nave destinata a non attraccare, simile al destino, fino ad oggi, della UHL Fusion in rada nel Golfo di Trieste, che deve ancora caricare i 12 motori da consegnare ad un'azienda sudcoreana. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sull'esito dell'incontro si è espresso il coordinamento sindacato nazionale Finfiom Wilm della Wärtsilä Italia e Finfiom Wilm nazionali. Si tratta di una delocalizzazione a tradimento, è scritto in una nota, con 451 licenziamenti che si configura sempre più come decisione scellerata, politica e non industriale. Nella nota si legge poi: Wärtsilä ancora una volta gira le spalle non solo al governo italiano ma a tutto il paese. Abbiamo apprezzato la posizione espressa a nome del governo dai ministri Giorgetti e Orlando nel rivendicare la continuità produttiva e occupazionale e riconoscere nel sito triestino una vocazione industriale strategica per l'intera filiera della cantieristica. Contro queste scelte di Wärtsilä, che pregiudicano il futuro dell'intera Wärtsilä Italia, FIM, FIOM, WILM proclamano quindi un ulteriore pacchetto di almeno 8 ore di sciopero da effettuarsi in tutti i siti secondo le modalità definite dalle RSU. Ma sentiamo in merito Andrea Della Pietra, rappresentante in Wärtsilä della FIOM CGL, presente all'incontro di ieri al MISE. È andata malissimo. L'azienda ha ribadito il fatto di non ritirare la procedura. Il governo, la regione, Confindustria e tutti siamo stati uniti a ribadire il concetto che andava ritirata la procedura. Hanno fatto orecchie dal mercante e adesso il governo metterà in campo tutte le ipotesi per intervenire su questa procedura. Ecco, la Wärtsilä ha detto che sarebbe disponibile a inviare ai sindacati il 12 settembre un piano di mitigazione degli effetti occupazionali in cui la reindustrializzazione sarà centrale. Che cosa significa questo? Loro vogliono trovare degli advisor per lavorare sulla questione dell'industria all'interno dello stabilimento, ma a noi questo non interessa, noi vogliamo andare avanti a produrre motori, quello che sappiamo fare. E dunque adesso la palla ce l'ha il governo con gli emendamenti e scardinare la legge sulle procedure. Quindi lo sciopero continua e cosa ne sarà dei 12 motori che ancora sono in attesa di essere trasferiti in Sud Corea? Abbiamo un incontro tra RSU, Finfiom, WIM, decideremo le iniziative da mettere in campo, sicuramente uno sciopero dei metalmeccanici di Wärtsilä e poi anche stiamo cercando di capire se ci sono anche le condizioni per uno sciopero generale del territorio di Trieste. 12.000 persone che vi hanno accompagnato nel corteo di sabato evidentemente non sono servite a smuovere i vertici della Wärtsilä. No, assolutamente, noi eravamo fiduciosi visto la grande presenza di persone e di istituzioni, di pensionati, di ex lavoratori, di ditte esterne, la solidarietà dei portuali. Eravamo convinti di arrivare qui al Ministero dello Sviluppo Economico e avere uno spiraglio per uscirne fuori. Invece hanno fatto di nuovo marcia indietro e siamo al punto di partenza. Passiamo alla cronaca con l'attentato mortale di matrice jihadista in una missione della diocesi di Pordenone in Mozambico, dove è stata uccisa una suora comboniana di Verona. 2 i sacerdoti della regione che sono riusciti a fuggire e salvarsi. Il gruppo armato è arrivato dalla foresta poco dopo le 9 di sera. Hanno dato alle fiamme quasi tutto: dormitori, chiesa, centro di salute, automezzi. Non hanno trovato i 2 parroci della diocesi di Concordia Pordenone, Don Lorenzo Barro e Don Loris Vignandel, per puro caso. Questi qui hanno sfondato tutte le porte, ma lì nel corridoietto, quello nostro, lì non sono entrati. È stata uccisa con un colpo alla testa Suor Maria De Coppi, suora comboniana veneta, in Mozambico dal 63, sarà sepolta in Africa, si sentiva figlia di quella terra. Alex Zappalà, direttore del centro missionario della diocesi Concordia Pordenone. Credo che la ricorderanno tutti proprio per il suo modo di essere mamma, amica, donna, compagna di viaggio per tante tante ragazze nell'ARC che hanno potuto realizzare il loro sogno di studio in questi anni. Nella provincia nord della missione di Scipene sono attivi da anni gruppi jihadisti. Il Dipartimento di Stato americano li ha inseriti tra le organizzazioni terroristiche. Nei giorni scorsi i ribelli si erano spinti a sud, oltre il fiume Lurio, una avvisaglia che aveva convinto i missionari a evacuare quasi tutti i ragazzi dal villaggio. Si stringe intorno a Don Loris Vignandello la comunità di Chions, dove il parroco ha celebrato messa fino al 2018, prima della sua partenza per la parrocchia di Scipene, grande da sola quanto il Friuli. Io ho fatto il sacrestano con lui 3 anni, poi lui è partito per le missioni, però quando ci siamo lasciati c'è stato anche un momento di commozione. Una persona splendida. Ho avuto questo desiderio di seguirlo, quindi andare a fare anch'io un'esperienza missionaria. E niente, lì è il suo mondo in realtà, perché questo attaccamento con i ragazzi, questa voglia di stare con gli altri, non tanto di fare ma di stare appunto con gli altri, è una cosa che proprio la vedi in lui, ecco. Come inizio anno scolastico ci ha inviato a tutte noi dello staff dell'asilo un augurio di iniziare l'anno scolastico bene e accompagnati dal Signore. Chions, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento, occupiamoci ora del caro energia e dell'inflazione che ha raggiunto ormai livelli record, portando a un sensibile aumento, soprattutto nel carrello della spesa. Siamo andati quindi a verificare come i consumatori e gli esercenti stanno affrontando i rincari. 8,4% è l'aumento dell'inflazione registrato dall'Istat ad agosto, trainato dall'impennata dei prezzi di gas, elettricità e materie prime, ma anche di quelli dei beni alimentari, che secondo l'Istituto di Statistica nell'ultimo periodo sono rincarati in media del 10%, con punte del 30% per alcuni prodotti. Un duro colpo che i cittadini della nostra regione hanno modo di riscontrare direttamente nel loro carrello della spesa. Io spendevo una media di 15-16 euro a settimana per la frutta e la verdura, siamo sicuramente oltre le 20. Parlando a grandi linee, diciamo che un 10 euro in più a borsa, sì. Adesso probabilmente si spende quei 10-15 euro in più, ecco, rispetto a prima. La verdura e la frutta anche. E specificamente in questo e poi un po' tutto, insomma, è ricalato un po' tutto. Adesso si aspetta, paura che ci possa essere ulteriori rincari nei prossimi mesi? Non sono molto positiva. Ma non è che rincarate, è triplicata, non è soltanto quello che dice l'inflazione, 7-8. Dall'altro lato del bancone, per far fronte alle spese crescenti, anche gli esercenti, in molti casi, si trovano di fronte a scelte difficili e a ritocchi di prezzo anche su beni quotidiani come le tazzine di caffè. Noi il caffè da 1,20 l'abbiamo messo a 1,30, chiaramente c'è sempre la tesserina di abbonamento per i clienti più fedeli, però purtroppo c'è da fare questa cosa. È aumentato tutto quanto, ma tanto. E dopo, di conseguenza, bisogna aumentare anche al pubblico. Comprano l'indispensabile, perché non vogliono più buttare via. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. La sanità, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Sugi comunica che FISI, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, che tutela i lavoratori della sanità pubblica ed accreditata, ha proclamato uno sciopero di tutti i settori della pubblica amministrazione, pubblici e privati, della sanità e della scuola di ogni ordine e grado, di 48 ore, dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di sabato 10 settembre. 15 milioni e 600 mila euro a Palma Nova e Cervignano del Friuli per presidio ospedaliero, ospedale di comunità, casa della comunità e centrale operativa territoriale. 4,8 milioni di euro derivano dal piano nazionale di ripresa e resilienza e oltre 10,8 milioni di euro vengono finanziati dalla regione. La progettazione è già avanzata, a comunicarlo la regione in un incontro con i sindaci dei comuni interessati dall'investimento. In merito arriva il commento del sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini, e del vice sindaco e presidente della rappresentanza ristretta, Francesco Martinez, secondo i quali l'intervento sul pronto soccorso, i 3,7 milioni per l'antincendio, sono progetti vecchi, già finanziati da anni nei piani attuativi, prima dell'azienda sanitaria numero 2 e adesso dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Di nuovo ci sono la Casa delle Comunità e il Centro Operativo Territoriale per 1,8 milioni, opere imposte dallo Stato con fondi del PNRR per potenziare l'assistenza territoriale. In merito agli 8 posti letto di terapia semintensiva, conclude la nota congiunta, non vorremmo che fossero la sostituzione degli 8 posti di terapia intensiva attualmente in carico al reparto di pronto soccorso emergenza. Romano Prodi chiuderà la rassegna Incontri con l'autore e con il vino a Lignano Pineta. Al centro dell'incontro il libro di Prodi intitolato Le immagini raccontano l'Europa, che con 100 immagini narra le vicende dell'Europa, dalla ricostruzione post-bellica alla caduta del muro di Berlino, dall'abolizione delle frontiere alla moneta unica, dal suffragio universale ai referendum, dalla ricerca scientifica all'Erasmus, fino alla recente uscita della Gran Bretagna. A Lignano Pineta, al Pala Pineta, alle 18.30. È prevista alle 17.30 l'inaugurazione ufficiale della 28ª edizione di Friuli Doc, 4 giorni di appuntamenti calibrati sulla celebrazione di cultura, tradizioni, spirito ed eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio. Tra gli eventi della prima giornata, quello organizzato da Coldiretti, è intitolato Conoscere e riconoscere l'olio extravergine di oliva, in programma alla Loggia del Lionello alle 18.30. Relatore l'evologo Francesco Comelli, a cui abbiamo chiesto perché è importante saper riconoscere l'olio extravergine d'oliva. È importante riconoscere un buon olio extravergine d'oliva perché purtroppo in commercio ci sono tanti oli che hanno solamente il nome di olio extravergine d'oliva, ma se andassimo a fare un'analisi non chimica ma abbastanza sensoriale troveremmo grossissimi difetti che lo declasserebbero immediatamente. Allora l'importante per un consumatore è riconoscere un olio buono, che è un olio che fa bene, è un olio che fa bene sia cotto che crudo, è un olio che dà soddisfazione anche perché ha dei sapori, dei profumi. Da che cosa si riconosce il giusto olio extravergine di oliva? Allora, innanzitutto un olio extravergine di oliva deve essere per forza ottenuto solamente da un'azione meccanica, di conseguenza la chimica non deve entrarci nella produzione di un olio d'oliva. Lo si riconosce non dal colore, ecco, è una cosa strana che magari uno dice questo è un bell'olio di un bel colore, però potrebbe essere cattivo. Infatti in degustazione i bicchierini per il degustatore sono di un colore blu che appunto mascherano il colore per evitare che il degustatore venga un po' fuorviato dalla cromaticità del prodotto. Lo si riconosce da un profumo, l'olio buono ha un profumo fruttato, e dal sapore, più o meno piccante. L'acidità di un olio d'oliva è bassissima, di un olio extravergine d'oliva è bassissima. Occupazione altissima ma iscritti ancora troppo pochi, parliamo degli ITS, gli istituti tecnici superiori, corsi post diploma voluti e finanziati dalle stesse aziende che necessitano di lavoratori già formati. Abbiamo fatto il punto a Trieste partendo dalle scuole superiori con indirizzo tecnico che lamentano un numero di iscritti che è inferiore alle aspettative. Il mercato del lavoro li richiede e tanto, le scuole li formerebbero e bene, peccato che a mancare siano i ragazzi. Un po' la natalità in calo e un po' la vecchia idea che l'istituto tecnico sia una scuola di serie B. Niente di più sbagliato, dice con convinzione Tiziana Napolitano, dirigente dell'istituto dell'Edda Fabiani di Trieste. I ragazzi che escono da qui hanno le porte aperte per ogni opportunità. Hanno acquisito delle competenze tecniche particolarmente forti, frutto del lavoro speso nei laboratori, grazie agli insegnanti tecnico-pratici, ma grazie anche alla qualità dei laboratori che gli istituti tecnici hanno. La carenza di iscritti alla secondaria si riflette anche negli ITS, gli istituti tecnici superiori, altamente professionalizzanti, nati ormai 12 anni fa ma ancora poco conosciuti. In questi giorni si sta procedendo alle iscrizioni in tutta la regione, ma pochi sono gli studenti. Clementina Frescura. Le iscrizioni non sono tantissime, si va sempre in una seconda tornata di iscrizione, nonostante i percorsi siano assolutamente calibrati su quelle che sono le aspettative del mondo del lavoro e la preparazione sia di altissimo livello. All'Accademia Nautica di Trieste da 2 anni si cerca di far partire un corso di cyber security. Stefano Beduschi, presidente della Fondazione Accademia Nautica. Le aziende hanno bisogno in questo momento di tecnici superiori che riescano a capire e comprendere le reti informatiche per quello che fanno come reti informatiche e per quello che fanno come sistemi di supporto a varie attività operative. Il livello di occupazione di tutti gli ITS è altissimo, spesso arriva anche al 100%. Bruno Zweck, direttore Accademia Nautica. Hanno un lavoro di qualità, non un lavoro pur che sia, che non soltanto è retribuito in base a quelli che sono i contratti, che è già importante, ma consente anche per tante di queste professioni di mettersi poi loro stessi sul mercato e ottenere avanzamenti e di stipendio e anche di carriera. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, presiderà il tradizionale pellegrinaggio diocesiano a Castelmonte con la salita a piedi alla Santa Messa che, a causa delle avverse previsioni meteo, sarà celebrata in santuario. Come da tradizione si salirà alle 14.30 da Carrara de Cividale, nei pressi della chiesa di San Rocco. Già dalle 15 in santuario ci sarà la disponibilità dei confessori, alle 16 la recita del Santo Rosario e alle 17 l'arcivescovo presiderà l'Eucaristia. La tradizione, che si ripete dal 1976, sarà anche occasione per avviare simbolicamente il nuovo anno pastorale e tributare una speciale preghiera per il 50° di Monsignor Mazzoccato, ordinato sacerdote nel settembre 72. Un convegno dedicato all'invecchiamento attivo, organizzato dal cluster Scienze della Vita del Friuli Venezia Giulia, in programma a Udine, nella sede di Friuli Innovazione di via Jacopo Linussio, dalle 14. In scaletta anche un intervento sull'alfabetizzazione digitale come strumento di inclusione e benessere della popolazione anziana e il rapporto tra invecchiamento e mondo del lavoro. Ha come tema il cambiamento climatico il ciclo di 4 incontri organizzato dall'Associazione Culturale Leali delle Notizie in collaborazione con Lega Ambiente e Circolo Ignazio Zanuto di Monfalcone. Oggi il primo appuntamento è intitolato Quelle Cassandre del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Gli effetti dell'aumento della temperatura in Friuli Venezia Giulia oggi, non tra chissà quando. L'incontro si terrà a Ronchi dei Legionari, al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, con ingresso da Via Roma, alle 20.30. Tra i relatori, la climatologa dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Valentina Gallina, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. L'aumento della temperatura è evidente anche dalle serie storiche che abbiamo di più ampio raggio, come quella di Udine, che parte dal 1800 circa. Non solo sono aumentate le temperature, sono aumentate sicuramente le temperature medie estive, sono aumentate le ondate di calore e quest'estate, diciamo, abbiamo avuto un esempio di quella che potrebbe essere un'estate nel futuro oppure un'estate molto fresca nel nostro futuro. Quello che sappiamo anche è che sono cambiate un po' la distribuzione delle precipitazioni nella nostra regione. Giugno era una volta un mese molto piovoso, adesso lo è molto di meno, mentre sono aumentate le precipitazioni durante l'autunno. Questo ovviamente comporta delle problematiche per la nostra povera agricoltura che anche quest'estate ha sofferto non poco. Quindi, volendo parlare anche delle considerazioni e degli effetti che questo potrebbe portare sul nostro paesaggio e sul nostro clima, è chiaro che ci sarà una modifica del paesaggio. Se volessimo considerare la classificazione del Pavari, che considera un po' quelle che sono le piante e le specie maggiormente presenti, noi sappiamo che ad oggi nel nostro territorio non ci sono specie e non ci sono classi che riguardano una siccità presente sul territorio, mentre in futuro, se non agissimo immediatamente, potremmo trovarci a fine secolo ad avere un territorio simile a quello di Catania, ad esempio, e una temperatura simile a quella di Catania. È anche vero che appunto tutto questo comporta degli impatti, ad esempio sul bilancio idrico. Abbiamo visto quest'estate come le piante sono entrate in sofferenza. Sappiamo benissimo che in futuro aumenteranno ancora di più le temperature e diminuiranno le precipitazioni estive e questo potrebbe portare a dei problemi nel caso in cui dovessimo integrare in qualche modo l'irrigazione, come è una domanda che rimane aperta per ovviamente tutti gli attori locali. Incentrata sullo studio archeologico di fiumi, laghi e bacini artificiali, la 2 giorni del primo workshop per un aggiornamento della carta di Udine per l'archeologia subacquea. 4 gli argomenti fondamentali in scaletta: la figura dell'archeologo subacqueo, il paesaggio archeologico sottomarino e delle acque interne, comunicare l'archeologia subacquea, opportunità e limiti nel rendere fruibile il patrimonio archeologico sommerso. A Udine, a Palazzo di Toppo Wasserman, in via Gemona, dalle 9. Prima giornata per la 23ª edizione della rassegna Pordenone Legge, Praga Mito, Praga Realtà, incroci della memoria tra storia e letteratura, il titolo dell'incontro che nella capitale della Repubblica Ceca impegnerà lo scrittore Emanuele Trevi e il direttore esecutivo della biblioteca locale, Michael Jantowski, già portavoce del presidente della Repubblica Ceca, Havel. Sarà possibile assistere in diretta all'incontro a Pordenone, nell'ex convento di San Francesco, alle 18.30. Presentata a Monfalcone, la stagione di musica e prosa del Teatro Comunale, 27 gli appuntamenti musicali e 13 gli spettacoli nel cartellone della prosa, che vede anche il ritorno di Simone Cristicchi con la nuova opera ispirata al Paradiso di Dante. Il Teatro Comunale di Monfalcone apre la stagione il 21 ottobre con la musica. L'Orchestra del Friuli Venezia Giulia dedica un omaggio a Niccolò Paganini per i 240 anni dalla nascita. Solista e direttore Massimo Quarta. Red Canzian racconta invece la musica leggera italiana dai 60 ad oggi assieme alla figlia Chiara, 16 dicembre. Superclassico Bach il 24 marzo con l'Arte della Fuga, emblema del contrappunto nell'interpretazione dell'Accademia Strumentale Italiana e spazio anche al tango. Il direttore della stagione musicale Federico Pupo. Tango che trasforma in swing del tango appunto le arie più importanti e più famose dell'opera italiana e quindi molto vicino al nostro gusto mediterraneo. E poi il ricordo di Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita, dove i temi affrontati da Pasolini vengono accompagnati dalla musica jazz. Sabato 22 aprile, serata dedicata a Charlie Chaplin con Il Monello, capolavoro del muto, accompagnato dal vivo al piano da Maud Nellissen, stella delle sonorità filmiche. Nel cartellone di prosa uno spettacolo decisamente inconsueto è Festen, il gioco della verità, serata unica il 7 febbraio 2023, su testo di Thomas Vinterberg, Morgens Rukov e Bo Hansen, una riunione di famiglia che da festosa diventa inquietante. Il direttore della stagione di prosa Renato Manzoni. Partiamo il 3-4 novembre con un omaggio proprio al teatro, al backstage, al retro e quinte, perché lo spettacolo si chiama Servo di scena. Avremo la danza con un balletto che ricreerà le statue di Canova, come sono nate, come sono poi realizzate le statue di Canova. Tutta la stagione verrà chiusa da Simone Cristicchi con lo spettacolo Paradiso, è un suo meraviglioso recital, ma accompagnato dall'Orchestra Naonis, diretta dal maestro Sivilotti, e dal coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Cristiano Dell'Oste. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Due gli allenamenti ieri per l'Udinese, che domenica affronterà in trasferta il Sassuolo in una gara valida per la sesta giornata di Serie A. Al mattino i friulani hanno lavorato in palestra, sulla forza, prima di spostarsi in campo per un lavoro tecnico-tattico. Al pomeriggio svolte partite a tema e una partitina a campo ridotto. Oggi in programma una seduta pomeridiana. I ganesi del Mazembe si aggiudicano la finale del trofeo Nereo Rocco disputata a Cividale, battendo per 2-1 il Pordenone e aggiudicandosi con pieno merito la coppa riservata ai calciatori under 18, 25 anni dopo i connazionali del Goldfields Accra. Gli africani passano ben presto in vantaggio con Kilongozi, che trasforma il penalty concesso dal direttore di gara per un fallo di mano in aria. La sfida si mette ben presto sui binari ideali per i bianconeri, perché lo stesso attaccante approfitta poi di una sbavatura di Ramarri per mettere a sedere difensore e portiere con un gran gioco di gambe e depositare nel sacco sguarnito per il raddoppio. Col passare dei minuti la pressione friulana cresce al 42esimo ed Oratiotto a deviare di testa in rete la punizione del compagno accorciando le distanze. Nella ripresa la gara si fa confusa e a tratti tesa, ma i congolesi non rischiano praticamente nulla ed entrano definitivamente nella storia della kermesse giovanile gradiscana. Pallanuoto, sorteggiato il primo turno dell'Eurocup, la Pallanuoto Trieste al suo esordio in una competizione continentale per club è stata inserita nel gruppo D che si giocherà a Barcellona. Girone difficile per Trieste con avversari padroni di casa del Mediterraneo, i greci dell'Apollon Smirne, la Stella Rossa di Belgrado, gli ungheresi del BVSC e gli slovacchi del Košice. Le prime quattro classificate dei quattro gruppi accederanno al secondo turno di Eurocup, quinte e seste finiranno in Challenger Cup, la nuova Coppa Europea introdotta quest'anno. Alle 7.46 minuti apriamo la rassegna stampa con la prima pagina del Piccolo di Trieste, che apre con la rottura al Mise, il governo in campo per bloccare Wärtsilä. I finlandesi sconfermano la chiusura. I ministri Giorgetti e Orlando uniti, subito la stretta antidelocalizzazioni. L'altolà di Fincantieri alle collaborazioni con la multinazionale, le barricate di regione, sindacati e Confindustria. Di spalla con il caro bollette raddoppiate, le richieste di pagamento a rate fra gennaio e luglio, già 2.900 le domande di privati accolte da Est Energy. Il comune conferma in aumento la fragilità dovuta all'impennata dei costi. Comune e Acegas lanciano la rivoluzione dei cassonetti digitali. Allo studio l'arrivo con fondi PNRR dei contenitori intelligenti con tessera di riconoscimento per incentivare la differenziata. Ex allenatore accusato di abusi sui ragazzini, 30 genitori, testimoni in tribunale. Dopo i giovanissimi, il mese prossimo saranno ascoltati in aula mamme e papà convocati in veste di persone informate sui fatti. L'antica tintoria Maria chiude i battenti dopo quasi 70 anni ai titoli di coda un pezzo di storia del borgo teresiano e del settore cittadino. Il foro fu aperto nel 1953. La figlia della fondatrice dice: è impossibile andare avanti. L'apertura del Messaggero Veneto è per l'attacco alla missione mozambicana, vicenda che nell'interno compare su 4 pagine. La fotonotizia dell'edizione di Udine per il convegno L'Alfabeto del Futuro, dedicato all'innovazione, che si è tenuto ieri a Palazzo Morpurgo. Tra i temi discussi, il cibo come sinonimo anche di sostenibilità. Capocronaca interno, il progetto comunale di spegnimento e illuminazione dei monumenti cittadini in chiave di risparmio energetico. Spazio poi un'inchiesta sulla situazione dell'accoglienza all'ex caserma Cavarzerani, in cui ora trovano alloggio 800 richiedenti asilo. 6 le pagine interne riservate a Friuli Doc. Da Tolmezzo, il vertice odierno dell'azienda sanitaria Friuli Centrale sulla disinfestazione della zanzara portatrice del virus usuto, decisa in seguito alla positività di un volatile selvatico ritrovato positivo appunto al virus, ma con una iniziativa bloccata dai residenti che volevano maggiori informazioni sull'intervento. L'apertura e la fotonotizia del Gazzettino di Udine sono per l'attacco in Mozambico. Da Lignano si legge poi sul quotidiano un reportage sul degrado della chiesetta del mare, il cui tetto è ora a rischio crollo. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, riaccesa la centrale A2A, sarà attiva per 7 mesi. Arrivati gli approvvigionamenti di carbone, garantirà 80 gigawatt ore al mese. Lo stop totale al gas russo induce il governo a chiedere agli impianti la massimizzazione della produzione. A centropagina la fotonotizia: il ponte 8 agosto finisce sotto osservazione. Non solo la passerella di Stracis, l'amministrazione comunale ha avviato un programma di verifica strutturale dei principali manufatti stradali presenti nel demanio comunale, memore di quanto accadde a Genova con il ponte Morandi, un'iniziativa che va nella direzione della sicurezza. Di spalla, dragaggi, gli scavi previsti inizieranno tra un anno. Intanto i costi per i rincari delle materie prime lievitano di 2,3 milioni. Trieste e Udine in aiuto al comune di Gorizia con 60 computer. La solidarietà dalle due amministrazioni municipali ha evitato la paralisi totale. 2 gruppi di volontari bonificano i canali della laguna, bonificati i canali minori, interessati all'iniziativa Slow Lagoon, dove sarà permesso l'accesso solo a barche a remi. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto dedica non solo il titolo ma anche la fotonotizia e l'attacco alla missione mozambicana. Capocronaca interno, il progetto comunale di creazione di una comunità energetica da fonti rinnovabili con le partecipate per ottenere autonomia di risorse. Spazio poi all'allarme lanciato dal presidente provinciale Coldiretti, Matteo Zolin, sulla crisi di settore. Secondo i dati, 1 azienda su 3 lavora in perdita e 1 su 10 è prossima alla chiusura a causa del caro bollette. Da Sacile, il rinvio della regione al 2023 per l'appalto per la realizzazione della ciclabile dell'Ivenza. Il Gazzettino di Pordenone, per la cronaca giudiziaria, riporta la riserva di decisione del giudice per le indagini preliminari in merito alla responsabilità colposa di dottore e infermiera che 1 anno fa somministrarono la 2ª dose di vaccino anti-Covid a 36enne di Casarsa, morto poi nel sonno il giorno successivo per insufficienza cardiaca. Spazio poi alla sporcizia in corso Vittorio Emanuele a pochi giorni dall'avvio della rassegna Pordenone Legge. Dai quotidiani nazionali, il Corriere della Sera pubblica un servizio sulla vicenda Varsila e sottolinea la volontà ministeriale di rafforzare i disincentivi alla delocalizzazione delle aziende già varati nel 2021. Altro servizio, quello sull'attacco in Mozambico rivendicato dall'ISIS, di cui si leggono servizi anche sulla Repubblica e sulla Stampa. Il quotidiano di Torino contiene poi anche un colonnino sulla vicenda Varsila in cui si ipotizza in poche ore la messa a punto delle nuove norme antidelocalizzazione. E oggi in scadenza il bando per la ricerca di un collaboratore nell'alta formazione artistica e musicale del Conservatorio Tartini di Trieste e del Tomadini di Udine, che prevede anche posti a tempo indeterminato. Requisito d'ingresso: la laurea in discipline economico-giuridiche o umanistiche. La domanda di ammissione alla procedura selettiva può venire sia in forma cartacea attraverso presentazione diretta presso il Conservatorio Tartini di Trieste o tramite raccomandata postale oppure attraverso PEC. Sono poi previste un'eventuale prova preselettiva, una prova scritta o pratica e quindi una prova orale. La scadenza è di lunedì 19 settembre per il bando per assistente rivolto a diplomati delle scuole secondarie superiori. È stata annullata a causa previsioni meteo avverse l'annunciata tombola di Pordenone della società operaia, che ha già rinnovato l'appuntamento per il prossimo 8 settembre, in cui si festeggerà il 150° anniversario della società. Quanti avessero già acquistato le cartelle della tombola potranno presentarsi per il rimborso agli uffici della società operaia di Pordenone in corso Vittorio Emanuele dal 15 settembre. L'azienda sanitaria Friuli Occidentale informa che in occasione della festività del santo patrono di Pordenone gli uffici della sede centrale ASFO dell'ospedale di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e dei distretti del Noncello, delle Dolomiti Friulane, del Tagliamento e dei relativi servizi ambulatoriali resteranno chiuse, ridotte le attività sanitarie e sospesa l'attività nelle strutture ambulatoriali dei punti di prelievo che afferiscono al laboratorio dell'ospedale di Pordenone. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta manterranno le loro attività ordinarie in tutti i comuni. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione di programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con voi Ofevelin D. Alle 11.19 circa andrà in onda Vintage. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Ed è tutto per questo primo appuntamento con l'informazione regionale, che è stato redatto da Maria Spezia e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e Riccardo Stoici. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.